24, la storia. Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per professione l'ingannapopoli. Il 9 maggio del 78, nelle stesse ore in cui l'Italia è sotto shock per il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, in un piccolo paesino della Sicilia, a 30 km da Palermo, muore dilaniato da una violenta esplosione Peppino Impastato. 30 anni, militante della sinistra extraparlamentare, sin da ragazzo Impastato ha dichiarato guerra alla mafia, denunciandone traffici illeciti e intrecci con la politica. A far uccidere Impastato è Don Tano Badalamenti, il boss di Cinisi, capo indiscusso di Cosa Nostra negli anni 70. Il bersaglio preferito di Impastato nelle sue trasmissioni nella Radio Libera che aveva fondato. Quella di Peppino Impastato, che il grande pubblico ha conosciuto con il film I Cento Passi, è una storia di coraggio e di riscatto in una terra difficile ma straordinaria. Ed è qui che ha inizio la sua storia, in un piccolo paese affacciato sul mare, Cinisi, terra di mafia. Ma che cos'è la mafia in quelle terre? Sentiamo lo storico Salvatore Lupo. In un paese di questo genere che cos'è la mafia? È un sistema di mediazione sociale in cui certi personaggi influenti, sia con il povero contadino, sia con il grande avvocato, si presentano come mediatori, sempre disponibili a trovare la soluzione del problema. Siccome molto spesso questa mediazione non funziona, questa bonomia apparente ha sempre dietro la minaccia di risolvere la questione con la violenza. Una rete di relazioni che si alimenta di scambi, di favore, di protezione, in cui la violenza viene prima minacciata e poi molto spesso praticata. Un clima di intimidazione, di violenza e di omertà che Peppino respira fin dalla nascita. Suo padre, Luigi Impastato, pur senza avere mai avuto un ruolo di primo piano, è comunque strettamente legato a Cosa Nostra. Suo cognato, infatti, è Cesare Mazzella, capo della cupola di Cosa Nostra negli anni 60. È lui che sposta gli interessi della mafia dalla campagna alla città ed è lui soprattutto ad avviare il traffico di droga con gli Stati Uniti. Sentiamo Giovanni, fratello di Peppino, e Felicia, la mamma di Peppino e Giovanni. La mia famiglia era una famiglia di origine mafiosa. Mio zio Cesare Mazzella, che era sposato con una sorella di mio padre, era il capo della cupola negli anni 60. Cesare Mazzella viene ucciso il 26 aprile del 1963, la prima autobomba nella storia dei delitti di mafia. Io avevo appena 10 anni, Peppino ne aveva 15. Siamo andati a vedere quello che era successo nella tenuta di Cesare Mazzella. Ma la società è formata di questa gente? Sì, sì, purtroppo sì. Fu colpito sul ragazzo. Quel delitto per noi è stato un trauma. Peppino, rivolto a me, si è espresso in questo modo: se questa è mafia, io per tutta la vita mi batterò contro. Da lì inizia la sua rottura all'interno non solo della società, del paese Cinisi dove viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia. Peppino è un caso unico, non c'è un altro caso di militante, di attivista, diciamo, la lotta contro la mafia, che proviene da una famiglia mafiosa, e famiglia mafiosa di serie A. Per Peppino è il problema del suo sangue, il problema delle sue radici, il problema della sua stessa esistenza. Era la voce di Umberto Santino, presidente del Centro di Documentazione Giuseppe Impastato. Piangi la terra, piangi lo cuore. Peppino cresce in una terra di mafia e piano piano comincia ad aprire gli occhi e capisce qual è il contesto che lo circonda. Assieme ad un gruppo di amici fonda l'Idea Socialista. Sono gli anni 60. Con il giornale Peppino mette in luce le relazioni tra il potere politico, gli amministratori locali di Cinisi e la mafia. Ma per Peppino i primi ostacoli si trovano proprio in famiglia. Io dormivo a pian terreno, mio fratello a primo piano. Senti, mi dica tuo figlio comincia con la mafia. Che fuoco, come marito che ci combatte ora? Tu questo non lo puoi fare. Perché tu non sai a quale famiglia appartiene. La madre Felicia lo mette in guardia, ma Peppino non ne vuol sapere. Ormai ha dichiarato guerra alla mafia. È una guerra, la sua, una guerra personale, anche se il prezzo da pagare è subito altissimo. Impastato vuole sfuggire al legame tra la sua famiglia e la mafia e il risultato è che il padre lo caccia di casa. È un conflitto tra padre e figlio che si consuma giorno dopo giorno e si fa sempre più aspro, ma è anche un conflitto che riserva una sorpresa. La madre, Felicia, infatti si ribella al marito e si schiera a fianco del figlio Peppino che così scriveva nel suo diario. Arrivai alla politica nel lontano novembre del 65, su basi puramente emozionali. A partire, cioè, da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Con la famiglia dei Badalamenti c'erano buoni rapporti. Erano molto amici di mio padre. Abitavamo vicini, Gaetano Badalamenti veniva spesso anche in questa casa. Mia madre non voleva mafiosi in casa. Io gliel'ho detto a mio marito, bada a tu, la latitanza in questa casa non ne deve portare. Dopo la ribellione di Peppino, anche lei comincia a capire realmente chi era il marito e in quale ambiente viveva. Mio padre, capo del piccolo clan, è membro di un clan più vasto con connotati tipici di una società tardo contadina e pre-industriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi fin dalla mia nascita nel tentativo di impormi le sue scelte ed il suo codice comportamentale. È riuscito soltanto a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva ed a compromettere definitivamente ogni possibilità di espansione lineare della mia soggettività. Mio padre ammirava moltissimo Peppino, era orgoglioso di questo figlio così vivace, molto intelligente, che studiava. Chiaro che ne voleva fare una persona come pensava lui, non c'è riuscito. Per un mafioso questo è il totale fallimento. Quando parliamo di rottura noi dobbiamo essere chiari. Non è stata una mancanza di affetto nei suoi confronti, ma un modo di non condividere le sue scelte, le sue idee. Anche mia madre soffriva, voleva salvare a tutti i costi la famiglia. Io ho tenuto la famiglia unita, tutti i fratelli ero padre. Tentava di proteggerci come poteva, però soffriva perché la cosa gli sfuggiva dalle mani. Le volevo far mettere d'accordo, non ci potte. Peppino viveva malissimo. Viveva fuori di casa, poi rientrava. Quando mio padre lo buttava fuori, prendeva un po' le distanze da questo figlio ribelle. Poi forse si perdeva mio marito. Allora le date di festa, che saccio Pasqua, Natale, così, ci chiama. Ma i pentimenti del padre non bastano. Peppino non torna sui suoi passi, non rinuncia alla sua guerra contro la mafia e anzi cerca strumenti sempre più efficaci per mettere a nudo la vera natura di Cosa Nostra. Del resto, il 68 è alle porte, anche Peppino Impastato scopre un nuovo impegno politico. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Peppino Impastato. Siamo nel 68, Peppino ha 20 anni e come molti suoi coetanei partecipa alla rivolta giovanile di quegli anni. Nel marzo del 67 Peppino Impastato vive l'esperienza della Marcia della Pace organizzata da Danilo Dolci, che diventa per lui un punto di riferimento importante. Sempre in quegli anni inizia le sue battaglie in favore dei contadini espropriati dai terreni per la costruzione della terza pista di Punta Raisi. Questa la ricostruzione di Salvo Vitale, amico di Peppino. Negli anni 50 si prese la sciagurata decisione di costruire un aeroporto che servisse la città di Palermo. Lo fecero a Cini, su un lembo di terra circondato dalle montagne. La decisione venne presa dalla regione siciliana, ma dietro c'era la forte pressione della mafia di Cini, il cui capoccia allora era Cesare Manzella, zio di Peppino Impastato. Il controllo di un aeroporto per un boss mafioso significa avere mano libera nell'organizzare i viaggi con l'America, i traffici di armi e di droga. Fatta la prima pista, o anzi le prime due piste, che sono una il prolungamento dell'altra, ci si è accorse che quando c'era forte vento gli aerei non potevano atterrare. 10 anni dopo si pensò di fare una pista trasversale. Questa volta si venivano a intaccare i terreni più produttivi del paese, in questa contrada che si chiama Molinazzo, dove vivevano circa 250 famiglie di cinesi. Parecchia gente si è vista buttare a terra la casa dove viveva regolarmente. Ci sono stati quasi un anno e mezzo di lotte. È stato in questa occasione che ci siamo conosciuti e abbiamo lasciato un rapporto politico con Peppino. Peppino inizia a stringere legami di amicizia con i tanti giovani di Cinisi. Li accomuna una lotta, quella culturale del 68, ma non solo. Ascoltiamo Felicetta Vitale e Giovanni Riccobono, amici di Peppino Impastato. Una persona molto semplice, molto disponibile. A volte si scherzava a casa oppure prendevamo in giro la mamma Felicia. Peppino è stato per me un grande amico e soprattutto un grande maestro. Credo che mi abbia insegnato molte cose, ad essere allegro, ad essere molto riflessivo, a non essere troppo impulsivo. Peppino è una sorta di maestro anche per il cugino Piero Impastato. Quando arrivavo a Cinisi, io da lui apprendevo molte cose che non sapevo. Quindi per me è stata una specie di apprendistato, diciamo, stare vicino a Peppino. Certo è una persona seria, cioè, però nei momenti di vita sociale era un compagnone. Gli ideali di Peppino, così come gli ideali di quegli anni di centinaia di migliaia di giovani, erano legati all'idea di uguaglianza, di riscatto, di emancipazione dei poveri, di coloro che erano sfruttati. La voglia di vivere. Peppino non era il compagno inquadrato, il politico, si fa solo questo, no. Era anche la gioia. Erano gli amici Paolo Arena e Marcella Stagno. L'impegno di Peppino Impastato contro la mafia è contagioso. Intorno a lui si raduna un gruppo di ragazzi animato dall'identico spirito di ribellione. Nasce così il circolo Musica e Cultura, che promuove attività culturali con cineforum, musica, dibattiti, che diventerà il principale punto di riferimento per i giovani di Cinisi, anche e soprattutto nella loro azione di denuncia della mafia. Una ribellione che in Sicilia si unisce al vento del 77, che porta un nuovo tipo di impegno. In tutta Italia è il momento del boom delle radio libere. Anche Impastato decide di fondarne una a Cinisi. Si chiama Radio Out e usa la satira per sbeffeggiare i capi mafia e i politici locali, rivelandole senza reticenze tramite illecite attività illegali. Naturalmente il bersaglio preferito della radio è proprio lui, Don Tano Badalamenti. Ascoltiamo Salvo Vitale e Giovanni Riccobono, amici di Peppino. Peppino ha intuito il principio che le proprie idee bisogna saperle diffondere e la radio era proprio lo strumento per arrivare là dove magari la gente, rimanendo a casa, preferiva ignorare alcuni argomenti. Scaturiva tutto fuori dalle iniziative di Peppino, dalle idee di Peppino. Noi eravamo molto vicini a lui, era trainante. Peppino è un vulcano di idee. Ne parlano Guido Orlando e Faro Di Maggio, amici di Peppino. Quando abbiamo occupato la radio mi ricordo che lui mi aiutava spesso a fare le trasmissioni, insomma facevamo sempre trasmissioni assieme. Ci siamo procurati un trasmettitore militare al mercato delle Pucce a Palermo, l'antenna, poi avevamo degli amici tecnici e poi si andava a provare dove il segnale arrivava, perché arrivava sul golfo di fronte, Cinisi e Terrasina, poi oltre la montagna non ci arrivava. A seconda il tempo, il vento, meno il segnale non arrivava oltre, diciamo, a Castellammare. Peppino mi disse: abbiamo una radio, ha intenzione di lavorarci. E quel momento, gli ultimi mesi sono stati quelli più intensi che abbiamo vissuto assieme, soprattutto nel portare avanti questa trasmissione Onda Pazza, che era una trasmissione satiro-politico-schizofrenica in cui non c'era pietà per nessuno. Dicevamo che la mafia locale gestiva certe cose facendo dei nomi e dei cognomi che in quel periodo non dovevano essere fatti. La satira era lo strumento per mettere in ridicolo i ben pensanti, i responsabili politici del paese e soprattutto i mafiosi. Radio Out, con la trasmissione Onda Pazza, si inventa un nuovo linguaggio per rappresentare l'amministrazione locale. Cinisi è Mafiopoli. Il municipio è il maficipio di Mafiopoli. Il corso del paese è il corso Luciano Liggio e il grande capo è Tano Seduto. A Cinisi non si muove foglia che Don Tano non voglia. Diventa lo slogan di quella radio e Peppino il suo leader. Qui arriva Onda Pazza, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto. Cercavamo di sminuire l'intoccabilità di questi personaggi e in particolar modo di Gaetano Badalamenti. Si muoverà foglia senza il nostro consenso. Che Tano non voglia. L'essere preso in giro per un mafioso è una questione d'onore. Noi abbiamo un proverbio siciliano che dice: un rispetto è misurato, culo porta l'ave portato. E noi mancavamo di rispetto a Don Tano, che era in assoluto il capo di Cosa Nostra. C'è uno sketch famoso, quello della festa della ricotta. È sempre Onda Pazza, è in corso il programma speciale sulla sagra della ricotta o sulla ricotta sacra. Ore 15:30, distribuzione gratuita di ricotta in ciotole. Tutta pigliare a ricotta. A ricotta. Ci viene Luca Caruna tutti. Ma cosa si fa? E anche a Don Tano gli si è chiesto: Don Tano, ma lei... Don Tano, cioè se si fosse a Don Santerene cosa luce? Vedoso, damoci cosi luce ai picciotti. Ma se ne pigliasse la tanticchia. Mi sento un dolore di panza. Ma ci sta bene Luca Caruna buona bossia? Sto attento a come pare. Perché Don Tano un caca e se caca caca d'oro. Ecco, lo facciamo parlare in questo modo. I miei metodi funzionano sempre. Don Tano Badalamenti, un grande capo. Quando lui passava a Cinisi, le persone quasi quasi si inchinavano al suo passaggio. Peppino si permetteva di ridicolizzarlo, fare ridere tutte le persone di Cinisi. I ragazzini che incominciavano a ripetere Tano seduto, i bambini che chiaramente non capivano, però sentivano queste trasmissioni, anche loro si divertivano, la gente l'ascoltava, c'erano indici di ascolto molto elevati. Don Tano che è un uomo di fede immensa, un uomo che crede fino in fondo nella divinità, che crede fino in fondo nei santi, che crede fino in fondo nella pace divina, nella pace eterna. Don Tano che prega. E rispetto alla potenza di questo boss eravamo piccoli pidocchio, piccole mosche. Però siamo riusciti per un certo periodo a colpire nel segno. È meglio Onda Pazza ascoltarselo a casa, belli tranquilli. Di questi tempi non è prudente frequentare i bar, eh? Nei bar la parola di Tano non era pronunciata, nessuno si permetteva. Per noi erano lo zimbello dei programmi. Anche questa è la politica. Come si può attaccare alla mafia? Sminuendola. Il cattivo tra loro non esiste, il cattivo è sempre al di fuori di loro. Sarà allora il brutto. I brutti siamo noi. In quel momento nessuno di noi pensava che la fase finale della nostra voglia di democrazia poteva essere stroncata da un delitto. Ce ne siamo accorti nel momento in cui è successo e per noi in un certo senso è crollato il mondo. Don Tano Badalamenti è sempre più irritato per le continue insistenti prese in giro da parte di Peppino Impastato. Lui è il boss di Cinisi, il capo della cupola e non può tollerare gli sberleffi di un gruppo di ragazzi. La reazione di Don Tano sta per arrivare. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Peppino Impastato dai microfoni della sua Radio Out sta facendo molto rumore. Attraverso la satira sta ridicolizzando il capo di Cosa Nostra Cinisi, Don Tano Badalamenti. Ma è uno sberleffo che un boss non può accettare. E a questo punto Badalamenti convoca il padre Peppino, Luigi Impastato. Suo figlio la deve smettere. A raccontare quei momenti sono Felicetta, cognata di Peppino, Giovanni, il fratello, e Felicia, la madre. Ma che fa, ti lamenti? No, non mi lamento affatto. Bada. A come ti lamenti? Eh sì, bada a come ti lamenti. Mio suocero è stato richiamato, è venuto qua a casa nostra, Palazzolo, luogotenente di Badalamenti. o ce la fai smettere e ci possono ammazzare. Dici, no, tu non l'ammazzi mio figlio, l'unico piacere che ti posso fare è di buttarlo fuori di casa. Mio suocero ci comunica: devo fare un viaggio, però non vi dico né dove vado né cosa vado a fare. Veramente non ne potete più di ste chiamate, queste minacce di patalamente. Signore, in America, forse cercare protezione per un figlio. La cugina americana chiede a mio padre, a Luigi, perché ti trovi negli Stati Uniti? Sta succedendo qualcosa a Peppino? Si vogliono ammazzare a mio figlio. E io ci disse che a mio figlio non vanno a toccare. Stanno ammazzando a me, non a mio figlio. Dopo che lui è rientrato, dopo un paio di mesi, mio suocero è morto. Era stato investito da una macchina. Luigi Impastato, padre di Peppino, muore la notte del 19 settembre 1977 investito da una macchina. Non è mai stato dimostrato se sia stato ucciso o se la sua morte sia stata frutto di un incidente. Al funerale del padre, Peppino rifiuta di stringere la mano ai boss di Cinisi, accorsi per le esequie. Una reazione che suscita scandalo in paese. Marcella Stagno, amica di Peppino. Davanti alla porta della casa di Peppino, questi tre gradini erano pieni di gente che era venuta a fare le condoglianze. Ricordo Peppino che si scaglia contro queste persone cercando di allontanarle, dicendo: con quale diritto siete qui, voi che l'avete ucciso non potete essere qui davanti alla mia porta in questo momento. Mio padre era diventato un pericolo per l'organizzazione mafiosa. Appena lui è morto, io ho capito che veramente Peppino era a rischio. Era il fratello Giovanni. Dopo la morte del padre, Peppino Impastato non ha più nessuno che lo protegge dalle minacce di Badalamenti. Eppure, nonostante il dolore per la perdita del padre, nonostante il pericolo che sente crescere intorno a sé, Impastato non rinuncia alla sua guerra contro la mafia. Nel 78 si candida alle elezioni comunali nella lista di Democrazia Proletaria, ma ormai il suo destino è segnato. È lunedì 8 maggio del 78, così gli amici ricostruiscono quel tragico giorno. Eravamo stati tutto il pomeriggio a Radio Out, come ogni pomeriggio, l'8 maggio. Peppino aveva rilasciato un'intervista a un'altra radio di Terrasini. E la stavamo ascoltando e poi si stava discutendo, gli hanno tagliato delle cose che aveva detto. Era stata censurata tutta la parte che riguardava i nomi dei mafiosi e la presenza mafiosa nel nostro territorio, per cui erano sparite le parole di Peppino. Lui doveva andare in paese perché aveva dei parenti americani da salutare e poi alle 9 avevamo un'assemblea per parlare di un comizio per la campagna elettorale. Erano quasi le 8 di sera. Abbiamo pensato, andiamo a mangiare qualcosa, ci rivediamo qua fra un'oretta. Peppino mi ha dato passaggio in macchina fino a casa mia, cioè poco sotto la radio, l'ho salutato, ho avuto l'impressione che fosse seguito da una macchina nera di grossa cilindrata. Dopo quel momento non l'ho più rivisto. Nel frattempo era venuto Giovanni Riccobono, un compagno nostro, tutto preoccupato, cercando Peppino. Ancora non ci eravamo divisi, solo lui se n'è andato e qualche altro. Quando Giovanni è arrivato alla radio, lo abbiamo visto molto agitato. Ci ha detto che ci doveva dire qualcosa di importante. Peppino non c'era, dice: ma io devo dire, qua c'è una cosa, che cos'è questo? Il pomeriggio dell'8 maggio a me è stata fatta da parte di un mio parente una raccomandazione di non andare in paese perché quella sera sarebbe successo qualcosa di grosso. Questa cosa l'abbiamo subito avvertita come un brutto segnale. Con questo problema, questa paura, ci siamo rivisti e siamo andati a cercare Peppino subito. Abbiamo chiesto a qualcuno che conoscevamo in giro se lo avevano visto a Cinisi, ma nessuno lo aveva visto e quindi cominciavamo a preoccuparci. Peppino aveva ricevuto minacce in passato e pochi giorni prima la sua macchina, la 850 Fiat, era stata sabotata. Qualcosa di strano era successo. Peppino non era il tipo da ritardare. Con altri due siamo andati a Cinisi, sono andato a casa di Peppino. Verso le 10 bussano alla porta, io vado ad aprire ed era Giovanni Riccobono. E io ho chiesto di Peppino, dice: no, Peppino non è venuto. Perché non è venuto? C'era la cugina, aspetta. E subito da quel momento ci è venuto proprio il panico. Mi sono preoccupato quando sono venuti i compagni di Peppino a cercare Peppino, dicendo che sì, lo cercavano per una riunione importante che ritardava. E ci siamo messi a cercarlo anche fuori di Cinisi, nelle campagne, a mare e in tutte le trazzere. Siamo arrivati proprio anche fino a lì dove è stato ritrovato, qualche cento metri prima. Siamo entrati in questa stradina, molto piccola, sterrata. Non si vedeva la fine della strada, pensavamo che la strada morisse là e siamo tornati indietro. Sul tardi abbiamo sospeso le ricerche, ma eravamo disperati perché ci aspettavamo qualcosa di terribile, insomma. Eravamo certi che l'avessero preso, che l'avessero come tipo l'opara bianca. Quella notte non abbiamo dormito. Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato. La mattina, mentre io stavo andando a lavorare, verso 7:30, incontro un'amica mia, Fanny, che veniva a Terrasina a avvisare che era stato trovato Peppino saltato in aria dalla ferrovia. Gli hanno fatto fare il botto. E quella è stata la giornata più brutta della mia vita. Una cosa che ho vissuto in maniera traumatica, insomma. Peppino non era capace di fare l'attentato. Peppino lo fece ammazzare badalamente. Noi abbiamo puntato il dito su di lui e anche su altri mafiosi come gli unici possibili mandanti dell'omicidio di mio fratello Peppino. Non lo doveva fare questo, questa morte così barbara. Ma con l'animale si fa così, a colpi di pietra a destra. Gli amici e i familiari non hanno dubbio. Peppino Impastato è stato fatto uccidere da Don Tano Badalamenti. Eppure le indagini prendono tutta un'altra direzione. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 78, Peppino Impastato, a soli 30 anni, muore. Brandelli del suo corpo vengono rinvenuti sui binari del treno Palermo-Trapani. Mentre familiari e amici non hanno dubbi sulla matrice mafiosa di quella morte, le indagini prendono un'altra direzione. Si ipotizza il suicidio. Oppure che il giovane sia morto saltando per aria mentre preparava un attentato di dinamitardo. Nessuno parla o ha il coraggio di parlare di un omicidio di mafia. È l'ultimo oltraggio di Cosa Nostra a chi ha osato ribellarsi denunciandola pubblicamente. Così gli amici di Peppino, Salvo Vitale e Marcella Stagno descrivono quelle prime ore dopo la morte. Siamo andati sul posto, non ci hanno fatto mettere piede, era tutto assolutamente circondato. Siamo stati portati tutti in caserma, siamo stati tenuti tutti in caserma perché eravamo noi attentatori. Anche Salvo Vitale e la cognata di Peppino, Felicetta Vitale, sono sconvolti. Chi dirigeva le indagini forse voleva fare la sua carriera politica inventando un bel covo terroristico in Sicilia dove non ci sono stati mai terroristi. Quella notte è stata perquisita casa Impastato, sono state perquisite le case di tutti i compagni. Non è stata perquisita neanche una casa di un mafioso. Nell'immediato la Procura Generale di Palermo indaga sulla possibile matrice terroristica dell'attentato. Poi percorre la strada del suicidio. Ma per gli amici non ci sono dubbi. Peppino è stato ucciso dalla mafia. Così ancora Umberto Santino e poi Salvo Vitale e Marcella Stagno. Questa è una montatura, questo è il terrorista suicida. È un omicidio di mafia, perché per 10 anni alla radio, in altre attività, Peppino ha denunciato continuamente, incessantemente, i traffici, le attività mafiose. I mafiosi di Sinisi sono notissimi, il loro capo, riconosciuto, notorio, si chiama Gaetano Badalamenti. Ricordo di essermi recato presso tutta la tipografia della zona, che non hanno voluto stampare un manifesto, in cui dicevamo che Peppino era stato assassinato dalla mafia. Ricordo mia madre che venne ad aprirmi e dirmi: sentiste, hai sentito l'amico tuo? Voleva fare saltare in aria il treno che portava gli operai a Palermo. Quindi la raffinatezza del piano era non solo ucciderlo, ma distruggerne anche la memoria e il lavoro politico. Di quella mattina ricordo noi che giravamo con le buste di plastica della spesa, dove mettevamo i pezzettini, perché erano più di pezzettini non trovati. Ma le indagini, secondo il legale della famiglia Impastato, Vincenzo Gervasi, già dal primo momento non vengono condotte con tutte le cautele necessarie. Così descrivono quelle indagini lo stesso avvocato e Felicetta Vitale, cognata di Peppino. Tutti quanti sanno che la scena del crimine deve restare ferma fino a quando i rilievi non sono stati fatti. Non si tocca nulla, si fanno le fotografie, si raccolgono i reperti, si rilevano le impronte, si piglia il sangue, si analizza. Quando furono ritrovati i pochi resti di Peppino Impastato, nulla di tutto questo è stato fatto. Il primo atto di depistaggio fu la alterazione della scena del crimine. Abbiamo chiamato i carabinieri, che si trovavano ancora a piantonare il posto, chiedendo di prelevare quelle macchie di sangue per farle analizzare, perché supponevamo che potesse essere lo stesso sangue di Peppino, che Peppino fosse stato tramortito o ucciso nel casolare e poi posto sui binari. Per tutta risposta il carabiniere ci ha detto che quello poteva essere sangue mestruale, perché era un luogo appartato dove andavano le coppiette. La mattina del ritrovamento del corpo di Peppino era stato chiamato il necroforo comunale, era entrato dentro il casolare, aveva visto 2 pietre insanguinate che erano state buttate a terra e le ha consegnate ai carabinieri dicendo: penso che Peppino sia stato ucciso qua con queste. Ma di queste pietre non se ne ha traccia. Questi sono gli elementi che mi fanno parlare ancora oggi di depistaggio, su cui indagini ancora non ne sono state fatte. Coloro che avrebbero dovuto fare le indagini hanno preferito chiudere un occhio, voltare la faccia all'altra parte, pur di non disturbare il potente mafioso di turno. Durante la fase, soprattutto la prima fase dell'istruttoria, le indagini non hanno brillato né per acume né per volontà di andare fino in fondo. Erano i tempi in cui il procuratore generale di Palermo diceva che la mafia non esisteva. Poi ci sono i retroscena inquietanti dell'omicidio del Peppino Impastato. Ci sono militari che hanno abilmente provveduto a depistare quelle indagini e a portarle su un altro versante. Avete sentito Vincenzo Gervasi e poi il magistrato Franca in Bergamo, che si è occupata del caso Impastato. Dopo 9 mesi ufficialmente l'inchiesta viene formalizzata per omicidio contro ignoti. Così ancora Gervasi e Felicetta, cognata di Peppino. Il dottore Chinnici capisce bene di che cosa si tratta e la qualifica come omicidio. Si aspettava che arrivasse il feretro di Peppino per iniziare i funerali. C'erano anche i parenti di mio suocero qui dentro, Impastato. Una delle cugine di mia suocera comincia a buttare voci: mamma mia, quanti sono? Ci siamo affacciati per il corso ed è stato un momento di un'emozione unica, perché vedo salire dal corso un corteo. Compagni sono venuti da tutta la Sicilia e poi sono saliti con striscioni gridando: Peppino è vivo e lotta insieme a noi. Le sue idee non moriranno mai, fino a casa nostra. E da qui poi è partito il funerale. Appena sono entrati i compagni, alcuni parenti nostri di mio suocero, di mia suocera, sono scomparsi, hanno avuto paura. Da quel momento la rottura con i parenti di un certo tipo. No vendetta, giustizia sì.